Siamo al telefono con Marco dei Rude Boys di Rifredi, ci senti? Sì, buonasera, salve a tutti, grazie per l'invito. Ciao, ciao. Allora, c'è giunta voce che state facendo questo fantastico servizio. Ci puoi dire come si può partecipare, prima di tutto? Allora, prima di tutto si può partecipare chiamando, abbiamo tre numeri a cui si può chiamare. Se vuoi te li posso dire ora o te li dico dopo, come preferisci. Vai a sangue freddo. Diceli. Allora, il primo è Sara, è 338-886-4567. Il secondo è di Alessandro, invece, è 340-87-27111. Ottimo. E l'ultimo, invece, è Lorenzo, che è 333-4742-339. Comunque sì, questi numeri li potete trovare anche sulla nostra pagina Facebook, Rude Boys di Rifredi. E una volta che abbiamo questi contatti possiamo chiamarvi e cosa vi possiamo chiedere? Possiamo chiedervi una mano, giusto? Esatto, sì, poi ci puoi chiamare, abbiamo proprio un gruppo riservato al centralino che riceve le telefonate e le persone si possono prenotare per qualsiasi necessità. Parte da una semplice bisogno di farmaci o di medicine, o se no anche la spesa, il pagamento delle bollette, diciamo. Per ora le tre mansioni più richieste sono quelle. Beh, come sta andando? Avete molte richieste? Sì, molte, forse anche troppe, perché l'idea era quella di, all'inizio pensavamo di estendere questo servizio il lunedì, il mercoledì e il venerdì, però abbiamo visto anche che le richieste da parte del quartiere sono veramente numerose e quindi stiamo pensando di estenderlo nuovamente anche ai martedì, a giovedì e forse anche il weekend. Non male veramente, questa idea così venata subito da quando è iniziato questo stato d'emergenza. Cosa avete pensato? Bisogna fare qualcosa, aiutiamo le persone. Esatto, visto, essendo anche molto attivi qui sul quartiere, abbiamo detto: ma perché non fare un'attività del genere? Diciamo, l'unica paura era un po' il fatto di capire se fosse o meno legale un'attività del genere senza il consenso di nessuna associazione o istituzione. Però abbiamo visto anche su Facebook che anche i Bianchi Santo Spirito avevano organizzato un'attività simile, quindi abbiamo chiesto anche a loro come erano partiti, se in maniera autonoma oppure attraverso qualche contatto col comune, eccetera. Anche loro ci hanno detto che invece erano partiti senza nessun aiuto, in maniera completamente indipendente, e quindi ci siamo presi coraggio e abbiamo iniziato anche noi. E diciamo che la notizia si è diffusa veramente, veramente in un battibaleno, e siamo finiti sulla Nazione, sui principali giornali, eccetera. Quindi nulla, sono contento perché almeno le persone anziane, visto che poi di loro utilizzano Facebook, almeno sulla Nazione possono leggere, gli è potuto arrivare a notizia. Certo, no, allora davvero complimenti, grazie per star facendo questa cosa. Secondo me potete essere davvero di ispirazione per un sacco di gruppi, anche così d'affinità, che possono decidere di mettere in campo questa pratica che è molto concreta della solidarietà, e voi siete un esempio che basta auto-organizzarsi e si può. Esatto, infatti proprio partendo dal basso, senza nessuna istituzione dietro, cioè proprio quello che ci contraddistingue è anche un po' questo, perché di solito in queste attività che partono dal basso le istituzioni politiche, il comune, eccetera, cercano sempre di approfittarsi di queste iniziative, capito? Dicendosi, sì. Posso mettere anche ora, cioè, ora non voglio far nomi, però di solito succede sempre che dicono: va bene, vi diamo una mano, vi legittimiamo, però vogliamo il logo sul volantino, vogliamo essere quest'altro. E noi invece stavolta abbiamo deciso di continuare da soli, con l'aiuto della misericordia, almeno loro ci hanno voluto invece dare una grossa mano, perché senza il loro aiuto non, questa questa iniziativa non era legittimata, ovvero anche possibili incontri con le forze dell'ordine potevano recarci molti danni, perché senza essere legittimati, anche se io faccio un'azione diciamo di norma buona, però potevo lo stesso andare incontro a sanzioni o problemi. Invece grazie anche alla misericordia che ci sta in qualche modo anche tutelando, e la ringrazio per questa misericordia di Rifredi. Vai, va bene. Allora niente, rimandiamo ancora alla pagina Facebook Rude Boys Rifredi. E chiunque abbia voglia di partecipare, immagino sia il benvenuto. Fatevi sotto, c'è sempre bisogno di una mano. Ti ringraziamo, Marco, per questa testimonianza. Io ringrazio voi. Buon lavoro, grazie davvero. Davvero. Ciao, buona serata. E invece siamo qua, ci ha raggiunto nel frattempo Sancho, che ci vuole parlare esattamente della stessa cosa, ma sì, con un tempismo proprio da attaccante vero, è entrato in studio proprio mentre arriva il cross e la palla cade in aria su questa cosa. Buonasera a tutti di nuovo. Evviva Sancho! È Sancho al microfono. Anche tu hai fatto 2 giorni di cammino per arrivare a Frittole? Chiaramente, sì. Di questi tempi. In mezzo ai boschi, evitando ogni posto di blocco. No, non invitiamo a infrangere nessun divieto, assolutamente. Assolutamente. Ma a restare a casa. E ogni riferimento è puramente casuale a questa storiella. Anyway, naturalmente ispirati dai ragazzi di Rifredi, da quelli di San Frediano, eccetera, eccetera, anche a Mondeggi abbiamo pensato di cercare di darci da fare e di metterci a disposizione in questa situazione di emergenza. Naturalmente sappiamo che l'aiuto di cui ci sarebbe bisogno sarebbe molto più grande, però in questo momento di difficoltà abbiamo pensato anche noi, appunto ispirati da altri gruppi, di intraprendere questo percorso di solidarietà e di avvicinamento anche a tutta una fetta di popolazione che risiede, che vive tra Grassi, Nantella, dintorni, Osteria Nuova, appunto all'interno del comune di Bagnaripoli, cercando di offrire in questo momento appunto di emergenza un servizio utile. È lo stesso di cui abbiamo già sentito parlare adesso. Ci metteremo a disposizione per tre giorni alla settimana, lunedì, il mercoledì e il venerdì. Potete consultare la pagina Facebook di Mondeggi, il blog che non so se è già aggiornato, ma lo sarà presto se non lo è, e naturalmente anche le pagine diciamo legate ai paesi di Grassi, Nantella e Osteria Nuova. Questo servizio sarà attivo da questo venerdì e faremo la prima settimana di sperimentazione per capire meglio appunto intanto quante richieste, anche se ci sono già arrivate, ci sono, e per tararci un po' su le esigenze della popolazione, diciamo. Bello, quindi tutto ancora da vedere, insomma, però ho tanta voglia di dare una mano. Sì, è tutto in cantiere. No, la cosa che abbiamo ricordato anche attraverso un piccolo volantino è che innanzitutto che questo servizio che viene organizzato gratuitamente dal basso non è ancora, ma non pensiamo lo sarà, appoggiato dalle istituzioni locali, che però non sono in grado di mettere in campo in questo momento, a parte servizi privati, nessun tipo di aiuto concreto alla popolazione, ecco. Quindi diciamo che questo impegno lo vorremmo rivedere anche indietro, quando poi si parlerà della legalità o meno di Mondeggi. E in secondo luogo, la cosa che volevamo ricordare anche alle persone alle quali ci metteremo a disposizione è di capire anche attraverso insieme a noi, ecco, che non è che abbiamo capito questa questione così a fondo e che stiamo cercando di interpretarla tutti i giorni, che diciamo, mangiare anche un certo tipo di cibo che viene dalla grande distribuzione organizzata che attraversa gli oceani, i mari, per arrivare, che viene prodotto attraverso lo sfruttamento non solo delle persone ma delle risorse, attraverso la coadiuvazione di processi chimici di sintesi, di prodotti chimici di sintesi, è un modello che oggi dobbiamo ripensare totalmente, a maggior ragione a causa della crisi che stiamo vivendo, ecco. Certo, non possiamo immaginarci di... Sembra che stia venendo fuori che è anche quello il problema, ecco, cioè che stiamo arrivando a questa situazione così de merda. Non vogliamo dare giudizi avventati dicendo, dando le responsabilità ai cambiamenti climatici piuttosto ad altri fattori singoli, però sicuramente, diciamo, le condizioni per cui virus come altro, diciamo, come altri fenomeni che non riusciamo a controllare e che si verificheranno, quello diciamo ne parliamo da parecchio tempo, ecco, e quindi vogliamo ricordare appunto che anche il nutrirsi, cioè il ricercare anche un'autonomia rispetto alla propria alimentazione, o di cercare di farlo nella maniera più etica e pulita possibile, è uno sforzo che da ora in poi, diciamo, speriamo sia sempre più valutato, ecco. Sì, insomma, bisogna agire su più fronti, Mulo. Non so se hai qualcosa da dire a proposito. No, io auguro a tutte queste iniziative che vadano a ottimo fine e vediamo di spenderci noi che abbiamo la possibilità di farlo, nel senso che il progetto che le ragazze e ragazzi di Mondeggi stanno mettendo in piedi insieme a quello di Rifredi, unitamente a quello di San Frediano, mi viene in mente il CPI, chissà, esatto, quanti altri. Sì, esatto, e chissà quanti altri ci scordiamo, sono veramente essenziali in un momento in cui effettivamente qualcuno manca, o meglio, un'assistenza più concreta manca, specialmente a delle figure più fragili che vengono intese come parte della comunità solo quando, ecco, fa comodo pensarle così. E auguro anche che la risposta, pur nei paesini minuscoli che sono stati citati poco fa da Sancho, sia simile a quella di un quartiere come Rifredi, ci raccontava Marco poco fa, in cui mi viene più a sentimento, mi viene a pensare più facilmente le persone siano prive di tutta una serie di libertà che pur chi in campagna ancora si vive. Torniamo a questa dialettica, a questa contraddizione quasi. Però che dire, in bocca al lupo a tutti, a tutte. E quindi su Facebook di Mondeggi Ci sono dei numeri? Ci sono tre numeri che ora non vi dirò a memoria perché non ho qua davanti il volantino, ma potete trovarli. La prima settimana sarà Antonio il lunedì, venerdì Alessio, il mercoledì Jacopo al pomeriggio, due mattine il lunedì mattina e il venerdì mattina, mentre il pomeriggio di mercoledì diciamo era coperto dai volontari della Casa del Popolo di Grassina, che non abbiamo citato prima, ma saranno fondamentali nel realizzamento di questa iniziativa, e speriamo tanti altri soggetti che vorranno partecipare. Insomma, ottimo, ottimo. Per Grassi, Nantello, Osteria Nuova, fatevi sotto. Capannuccia. Mondeggi e la Casa del Popolo di Grassina ci sono, vi stanno vicini.